Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:19 minuti in questo venerdì, signori. Ma venerdì è un giorno come gli altri. Ma c'è il sabato, la domenica si lavora, si lavora, si lavora. Ma io lo dicevo per il 14 luglio. Il 14 di luglio? Tu lo sai che non il 14 è vero di luglio. Che lo dicevo per questo. Ma il 14 di luglio è la presa di Gerusalemme e la prima crociata. E quello ti riferisci a quello di sicuro. Quello, infatti, vedevi il tema, era tipico perché l'accento ebraico perfetto. Quasi palestinese. Tra l'altro, stamattina, una mattina di sangue a Gerusalemme, polizia elimina i tre terroristi. Però detto questo, e Cameron a posto, perché ovviamente proprio però oggi sì, il 14 di luglio, d'accordo, il 14 luglio. Però guarda che per la storia italiana il 14 luglio ha la sua importanza, purtroppo un po' relativa, visto che noi abbiamo un bilancio un po' parziale di come abbiamo aderito poi alla Rivoluzione Francese, ma è anche l'attentato a Togliatti, e quello ha corso il rischio di cambiare la storia italiana più approfonditamente, perché quel giorno 1948, quando uno studente sparò dei colpi che presero Togliatti fuori dalla sede del Parlamento, noi abbiamo rischiato per 48 ore la guerra civile alla greca, ma l'abbiamo rischiata molto più seriamente di quanto non si sia capito nei primi anni con la ricostruzione storica. Per fortuna, primo, le qualità delle pallottole erano cattive, se no Togliatti col colpo alla nuca sarebbe morto, e questo lì per lì non si disse, si è capito solo molti anni dopo. Secondo, Togliatti fece delle cose apprezzabilissime, perché disse a tutti i capi del suo partito: piantatela lì, state buoni, perché ci furono 30 morti in Italia in 36 ore, sequestrarono Vittorio Valletta in ufficio della Fiat, presero la prefettura di Milano, cioè insomma si è rischiato molto. E quel giorno Togliatti si è comportato, secondo me, estremamente molto molto molto. Non è facile con tre proiettili nel corpo, certo, essere responsabili, e invece bisogna assolutamente riconoscerglielo. Comunque, naturalmente oggi 14 luglio, la presa della Bastiglia, mai sette prigionieri sono valsi tanto nella storia come in quel caso. Invece proprio in questo giorno, tributo d'onore a Xulia Bo, morto, sì. Ovviamente Cina carcerato per anni, un eroe di Tiananmen, premio Nobel per la pace. Credo che il governo cinese abbia perso la battaglia facendolo morire fino a pochi giorni fa in carcere, perché le idee di un martire valgono più di quelle di un dissidente che deve essere lasciato libero di promuoverle. Però io ho grande stima verso Cinobo, e purtroppo il governo cinese dimostra che è molto lungo il cammino, non per lo sviluppo economico del paese, ma per le libertà. Esatto. Però i santi, Oscar, oggi è un santo dal grande operato sociale, un santo che nasce, pensa, di famiglia, e lui stesso come soldato di Ventura nella seconda metà del Cinquecento, soldato di Ventura, combatte a Tunisi, combatte per la Lega Santa, e sbecca un'ulcera che per tutta la vita, un'ulcera a un tallone, rischia a un certo punto di farlo morire, l'arto va in cancrena, e a quel punto capisce che questa vita non fa per lui, si converte, e si converte dedicando a quel punto prima tutto al suo impegno di vita a Roma a questo punto, e poi addirittura fonderà un ordine che viene riconosciuto dal pontefice, i Camilliani, che sono appunto tutti quelli che hanno quella croce rossa sul loro abito talare, perché sono dedicati integralmente come missione ai malati e agli infermi. Lui opererà per decenni al Santo Spirito, che è il grande ospedale fondato da Innocenzo III a Roma nel 1204, e morirà avendo dedicato tutta la sua vita. Sto parlando di San Camillo dell'Ellis, che morirà nel 1614, e infatti non a caso è il protettore degli ospedalieri, degli ospedali, degli infermieri, uno che oggi non avrebbe dubbi sul fatto di stupirsi che ancora c'è chi muore di morbillo in Italia. Eh sì, perché questo è successo ieri, una bambina di 16 mesi, purtroppo Tra l'altro si era vaccinata, ma siccome il vaccino agisce dopo 4-5 giorni e invece l'incubazione del morbillo era di 7-8, subito dopo il vaccino evidentemente aveva contratto il virus del morbillo ed è morta purtroppo. La situazione invece, Oscar, che preoccupa sicuramente è quella dei vari roghi in varie parti d'Italia. Sai che oggi Galli della Loggia, non so se hai letto sul Corriere della Sera, ha raccontato in un lungo fondo, partendo proprio dal caso dei roghi e raccontando poi di altre situazioni, l'immigrazione, la mancanza di controllo, raccontando di un paese dove secondo lui tutti gli apparati pubblici hanno perso il controllo del territorio. Una frase pesante, soprattutto sul Corriere della Sera, no? Giornale molto istituzionale. E lui dice: non è di destra o di sinistra, è la realtà questa. Diciamo, ha una sua interpretazione della crisi dello Stato. Lui ha una certa idea dello Stato centrale molto forte, che non è la mia, però io credo che abbia ragione. E poi il problema è il controllo del territorio, solo no, è lo Stato che fa il controllo da se stesso. Faccio un esempio che può sembrare poco pertinente rispetto al fatto che in pochi giorni è bruciato più dell'intero 2016 dalla Calabria alla Campania alla Sicilia, però sono piccole cose che mi fanno pensare questo. Ieri, per esempio, per la seconda volta è stato annullato, quando già erano presenti però i candidati da tutta Italia, la seconda volta che doveva iniziare con la prima prova il concorso per la selezione di 40 infermieri a Policlinico Umberto I a Roma. C'erano 1750 candidati che erano non solo da tutta Italia ma anche molti dall'estero, italiani ovviamente. E perché è stato annullato? E lo hanno appreso lì perché il Consiglio di Stato per la seconda volta ha detto ci sono problemi nella metodologia. Solo che erano tutti lì. Sì. Allora mettetevi nei panni di chi fa parte da tutta Italia per la seconda volta e lì presente glielo dicono, cioè arriva lì tutti a casa ragazzi, avete rispeso i soldi per niente. Allora uno Stato che non è in grado di evitare queste cose, hai capito? Questo voglio dire, sembra una cosa piccola. Però vogliamo capire sui fuochi invece con chi se ne sta occupando in prima persona. È l'ingegner Giuseppe Romano, che è direttore generale della Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Ministero dell'Interno. Buongiorno ingegner Romano e grazie di essere con noi. Perché, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. La situazione, è anche se a macchia di leopardo, è preoccupante. Quali sono le situazioni che più preoccupano in questo momento? Dunque, ieri e l'altro ieri ci hanno impegnato molto le regioni che avete citato poco fa, quindi Sicilia, Calabria, Campania soprattutto. Ieri la situazione è stata meno pesante, le regioni che ci hanno preoccupato e ci hanno impegnato sono le tre che ho citato, un po' di più la Basilicata e la Puglia, ma complessivamente meno lavoro, come dicevo. Oggi gli indicatori di rischio indicano una situazione che può essere critica per la Sardegna e ancora le regioni meridionali, ma meno che nei giorni passati. Quindi questo almeno è positivo, nel senso che la situazione pare meno grave rispetto ai giorni passati. Senta, oggi il capo della Protezione Civile, Curcio, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice che per l'esperienza che si ha sembrano quasi tutti incendi dolosi, ecco, cioè che ci sia dietro la mano dell'uomo. Voi da esperti di intervento cosa potete dire? Può confermare? Questo è un parametro molto difficile da valutare. Certo, come dice l'ingegner Curcio, per l'esperienza che si ha, quindi sulla base di quello che è avvenuto negli anni passati, perché poi in queste giornate, in questi frangenti, noi pensiamo a spegnere e poi lasciare più possibile il luogo com'è, in modo da consentire le indagini. Penso che le indagini che verranno svolte a partire da ieri e oggi, nei giorni che avverranno, potranno dire meglio come sono andate le cose. Perché l'esperienza indica questo. Arresti però non ce ne sono, anche oggi il Messaggero racconta che sono pochissime le persone. Ci vorrebbero pene forse più severe, non lo so, però lei è un tecnico. Ma posso dirle che Più che le pene più severe, occorrerebbe riuscire a prendere quelli che lo fanno e dargli le pene che ci sono, perché questa è la parte più difficile. Aumentare le pene forse è più facile. Che poi qual è il motivo in genere per cui si appicca un incendio? Per disboscare in maniera brutale? Ma ieri i giornali parlavano di varie possibilità. Uno, quello di recuperare gli spazi al pascolo, l'altra possibilità è quello di far pagare non avere accettato tangenti o protezioni, l'altro quello di rendere inedificabili zone che invece lo sarebbero se non ci fossero gli incendi e quindi creare danno in questa maniera. È difficile dire, sono le indagini che possono dare indicazioni più precise in questo senso. Senti, Generale Romano, c'è poi il grande tema dei mezzi, no? La polemica, anche Curcio ha detto appunto che ci sono regioni, intere regioni, 6 regioni senza mezzi. Ci sono i mezzi a disposizione per fronteggiare una situazione anche critica o no? O non sono sufficienti? Allora, due considerazioni molto chiare che vorrei fare, molto nette, importanti però. La legge assegna la responsabilità della lotta agli incendi di bosco alle regioni. Poi la legge dice che lo Stato interviene a supporto, a integrazione, nel caso in cui le necessità delle regioni non siano affrontabili con le risorse che sono a disposizione delle regioni stesse. Occorre quindi che le regioni si attrezzino. Questa è la prima affermazione. La seconda affermazione è: alcune regioni si sono attrezzate, altre regioni non si sono attrezzate o si sono attrezzate molto meno. Succede che le regioni che si sono attrezzate meno sono in condizioni tali da assorbire gran parte del supporto dello Stato, che in questi frangenti si trova evidentemente in difficoltà, perché i mezzi sono limitati. Non si può immaginare uno Stato che dimensioni le sue risorse rispetto al picco massimo, no? Sì, si dimensiona rispetto ad una situazione prevedibile. Quindi di fronte a un'emergenza... Occorre che tutti facciano il proprio ruolo, svolgano il proprio ruolo, se no il sistema non regge. Vorrei ricordare che la flotta aerea dei Canadair italiani è la maggiore d'Europa, quindi le macchine ci sono, ma vanno utilizzate per bene. Occorre che il territorio sia tutto coperto, altrimenti... Altrimenti succede, come sistema complessivo. Ecco. Guardate, Oscar, prima di dire ancora qualcosa, ingegnere Romano, siccome abbiamo il sindaco di San Vitolo Capo, provincia di Trapani, che può stare con noi solo pochi minuti. Sindaco Matteo Rizzo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Lì abbiamo visto scene addirittura di turisti che sono stati prelevati, portati via, come dire, con le barche in emergenza. Insomma, com'è la situazione adesso a San Vitolo Capo? No, la situazione sicuramente si è già normalizzata, e quindi i fuochi sono stati completamente spenti. Certo, le fiamme hanno lambito un villaggio dove insistono circa 1.000 persone, 1.000 turisti che sono stati fatti evacuare grazie un po' alla disponibilità della capitaneria di via di Porto di Trapani, ma anche di tanti operatori, di tante imbarcazioni della marineria locale. La gente è stata poi ospitata e grazie anche alla generosità delle nostre strutture ricettive, quindi si è normalizzata. Il resto rimane un po' da fare oggi una valutazione un po' del stato di fatto per avviare un processo di normalizzazione completa. Però dico, la situazione è assolutamente sicura e all'ambito solo a questa parte del territorio che riguardava questo villaggio a circa 10 km dal centro privato. Diciamo la situazione. Signor Sindaco, lei come autorità deve parlare a maggior ragione quando i fatti sono così freschi e i rischi ancora in corso solo sulla base dei dati di fatto, ma mi appello alla sua conoscenza, esperienza storica nell'area e nei comuni limitrofi. Quanti di casi analoghi negli anni poi sono stati accertati per ragioni dolose? Guardi, è difficile da stabilire, però è chiaro che quando nel corso di circa una settimana nel territorio del Trapanese, ad Erice, Castellammare, San Vitolo Capo e in più parti del territorio vengono atticcati dei fuochi, questo si pensa certamente a una matrice dolosa. È chiaro che possiamo dire tante cose, però in particolari giornate durante le quali queste persone approfittano delle condizioni medie, circa 40 gradi, con vento di scirocco e quant'altro, se appiccano il fuoco di sera durante il quale gli aerei, i Canadair non possono volare e quant'altro, la situazione diventa difficile da gestire. Però voglio dire anche che la macchina di intervento è stata perfettamente, è chiaro che le difficoltà ci sono nell'intervenire, certo. Per riuscire a salvare un villaggio con 800 persone e credo che vada dato merito a chi rischia personalmente nell'intervento, sia i piloti degli aerei, sia i vigili del fuoco, il personale della forestale, che veramente hanno fatto miracoli per questa situazione. Per il resto dobbiamo anche sensibilizzare la gente e capire che il territorio va rispettato. Se qualcuno vede, se qualcuno sa, deve parlare, perché non è più possibile che accadano di questi fatti. Eh sì, purtroppo accadono non solo lì. Intanto la ringraziamo, sindaco Matteo Rizzo, San Vitolo Capo, provincia di Trapani. Ingegnere Romano, non so, per concludere questa nostra chiacchierata, la ringraziamo. Ci ha detto che la situazione che più a rischio per i giorni futuri è la Sardegna, almeno per oggi, come indicatore oggi, di per rischio. Oggi gli indicatori indicano alla Sardegna particolarmente vulnerabile, quindi gli occhi puntati lì, le risorse predisposte lì. La sensazione è un po' quella di una coperta però un po' corta. Abbiamo dovuto chiedere due Canadair dalla Francia. Certo. Beh, li abbiamo anche forniti quando gli altri ce l'ha chiesto. La Francia ce l'ha forniti, li abbiamo forniti al Portogallo, li abbiamo forniti a Cipro. Per una volta tocca a noi, mi pare che il sistema funzioni da questo punto di vista. Vorrei sottolineare una cosa che ha detto il sindaco, molto molto importante. Forse chi si diverte, tra virgolette, o chi ha interesse ad appiccare il fuoco pensa al fuoco sul terreno che danneggia per ottenere i risultati che si prefigge. Forse non considera, oppure è talmente lontano dalla ragionevolezza da non considerare che questo significa grave rischio per le persone e per la vita umana. Questo bisogna sottolinearlo. Qui non si tratta di danneggiare soltanto i boschi, che è certamente un danno importante, ma di mettere a rischio molte molte vite. E su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Noi, ingegnere, la ringraziamo per essere stato con noi. Ingegnere Giuseppe Romano, grazie, direttore grazie. Generale a Centrale d'Emergenza e Soccorso Tecnico del Corpo dei Vigili del Fuoco, che sono continuamente. Sa che oggi il Fatto Quotidiano, Oscar, diceva che ci sono anche vigili del fuoco che chiedono di tornare al lavoro, no? Perché sono costretti magari alle ferie forzate. Sì, io anche ieri ho visto che. Ah, ecco, non voglio essere critico sui colleghi, però attenzione, avete prima tirato fuori la questione: mancano i mezzi per la fusione forestale carabinieri. No, il titolo era forzato, perché mancano i mezzi, perché la fusione è sacrosanta e anzi bisognerebbe ulteriormente concentrarla alle forze di polizia, carabinieri, eccetera eccetera, invece che averne così numerosi. Il problema è la pubblica, è la burocrazia che non funziona, perché se saltano i contratti di manutenzione non c'entra niente la fusione. Allora, oggi il Foglio dice: i forestali, no, i vigili del fuoco e i forestali sono costretti a fare le vacanze entro il 31. Infatti. Come tutti nella PA, e come tutti nel privato, anche in questa azienda funziona così. Dice: no, ma voi mi siete mica vigili del fuoco. Un conto è l'ordinarietà della gestione rispetto a quando poi ci sono i giorni di emergenza. È chiaro che quelle sono le disposizioni precedenti. Cari colleghi, dai, non facciamo casi che non esistono, per favore, perché alla gente diamo l'idea. Già in questo paese la PA non funziona, però insomma il problema non è né la fusione né lo smaltimento dalle ferie, a mio modestissimo avviso. No, ma infatti me lo dicono che ci sono dei vigili del fuoco che in situazione di smaltimento chiedono di poter. Poi ricordiamo che tra le cause dolose, ricordiamo, perché sennò verremo meno al nostro mestiere, che tra le cause dolose molte volte è stato accertato in alcune regioni, guarda caso due delle tre dei fatti di ieri, cioè Calabria e Sicilia, che ad appiccare dolosamente erano anche coloro che fanno parte delle migliaia di forestali di quelle due regioni che ne detengono un parco superiore a tutto il resto d'Italia. Per ricordare, casi. Noi siamo qui, continuate a pagarci, anzi pagateci di più. E ricordo anche che abbiamo preso anni fa con scandalo che nei 24.000 siciliani ci sono fior di pedine penali con precedenti per aver appiccato esattamente incendi. Ecco, ovviamente conta anche questo, conta. E come, non mi dite come sempre su questo argomento: ah sì, però quelli sono strumenti di integrazione al reddito, perché quelle due regioni, quella roba lì è tutta sbagliata, è una storia sbagliata di clientelismo pubblico sin dall'inizio. Non so, c'è Stefano che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, in relazione a quello che ha detto Ernesto Galli della Loggia, ecco, come facevate notare anche voi, la realtà in Italia produce scandalo, cioè l'osservazione della semplice realtà. Io ho 63 anni, sono 50 anni che sento parlare di questa situazione nel sud, sono esattamente 50 anni, e situazioni collaterali, situazioni di abbandono culturale, situazioni di mafia. Allora a me la domanda che sporge, che sorge spontanea è questa: cui protest? Cioè a chi serve che 35 milioni di italiani siano in questa situazione sociale, culturale? Che risposta si dà? A chi serve? A cioè, che, e che risposta si dà lei? La risposta è unica, cioè può servire soltanto a chi ha messo in moto questo meccanismo negli ultimi 50 anni per fare in modo che lì ci sia una sacca di popolazioni da cui attingere quello che serve, perché cioè a livello di delinquenza, a livello di, perché non si capisce come mai non ci sia un intervento. Cioè in un altro stato civile, in Francia, in Inghilterra, in Germania, sarebbero intervenuti, perché non si interviene? E poi chi è che deve intervenire? Lo Stato deve intervenire. Che interviene un privato in una situazione così vasta, così importante? Soltanto lo Stato può intervenire. Cioè io non è che sia centralista, però l'unico ente, l'unica istituzione che ha è lo Stato, cioè, non vedo soluzioni, ma non c'è interesse a farlo. Su questo qui prodest, insomma, facciamo così. Grazie Stefano dalla provincia di Roma che ha lanciato questa domanda. Non so se volete chiamarci 800 24 0024. Pensate anche voi, come dice Galli, scrive Galli della Loggia, che questa degli incendi sia solo l'ultimo degli esempi tra l'immigrazione, l'insicurezza, in cui si può dire che lo Stato in qualche modo in tutte le sue entità, in tutti i suoi enti, ha perso il controllo del territorio. È un'analisi molto dura, impietosa. Oscar non è no, ma d'accordo. Perché è questa idea dello Stato centralista, io so, Galli ce lo propone come lettura da sempre, secondo lui è un errore aver abbandonato l'idea dell'impostazione unitaria della Repubblica, cioè dell'accentramento amministrativo. Io penso che sia stato l'errore invece. Ma no, chiaro, ma lui ne fa una questione banalmente di sicurezza cittadina. Ti ricordi cosa Resgaloggio scrive della scuola università, lui ha questa idea dello Stato che deve dare questa idea etica di sé alta. Io tutt'altra idea. Lo Stato, se organizzato come in Italia, non funziona ed è inutile tromboneggiare sulla morale che lo Stato deve salvare. Lo Stato non può salvarsi dai suoi difetti, come qualunque cosa che abbia difetti. Questo, ecco, io la penso un po' diversamente. Secondo me, il problema è che bisognerebbe dire semplicemente: se non funzionano queste cose, come dice il nostro ascoltatore, da 50 anni tutte le estati, no? Ecco, vuol dire che l'incentivo per politica e pubblica amministrazione non è far funzionare quelle cose lì. Ecco, io la penso così. Non penso che sia lo Stato nella sua espressione più alta. Con questo non voglio mancare di rispetto a Cade della Loggia, però le idee pesano. La sua idea di Stato è una cosa che a me non convince. Tutto qua. Andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8 e 46 minuti. Ci sono gli ascoltatori, c'è Angelo, ci chiama da Modena. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Eccoci. Ecco, complimenti per la trasmissione. Grazie. 24, guai se non ci fosse la 24 giorno che ci interessa dei nostri problemi. La 24. Allora, veniamo dunque. Io ho telefonato, complimenti, perché la Guardia Forestale, il corpo della Guardia Forestale, che era un corpo santissimo, che era quello che curava i parchi, che controllava tutto il nostro verde, che è il nostro polmone. Mi dispiace per i carabinieri, perché con tutto quello che hanno da fare, era un corpo speciale proprio che era detto al verde. Lei non era dei forestali, no? E l'hanno abolito la Guardia Forestale. L'hanno abolito, l'hanno accorpato, non l'hanno abolito. Ma perché avete convinto che l'hanno abolito? L'hanno accorpato. Ma no, perché il comando è passato. Bene, un'unica catena funzionale. Gli uomini, le competenze restano. No, restano, ma verranno scomparsi. C'era un comando, lasci stare, cosa c'entrano i carabinieri, che Dio li, per l'amor di Dio, tanto di cappello, ma era un organismo, l'hanno incorporato. Lei non sa cosa vuol dire incorporazione, vuol dire che non è era un comando apposta per il verde, la guardia forestale è una santa. Guardi, è perché... però Angelo, lei santi però avrà letto anche lei, per esempio ci sono state tantissime inchieste, Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella hanno scritto anche di forestali che in alcune regioni, soprattutto in Calabria, a volta al volta sono stati beccati a incendiare, non sto dicendo tutti, cioè, no, perché poi se no, non voglio passare da santi a diavoli, però forestali in sovrannumero, interi paesi dove tutti facevano i forestali, poi un conto era il corpo forestale, esatto. Oscar, e un altro sono i forestali, quelli cioè, con i contratti a tempo delle regioni di cui parliamo in Sicilia. Lo so, però, però detto regioni... questo, guardi, ognuno è legittimato le proprie idee. Io non so chi vi abbia messo in testa che la proliferazione di forze dell'ordine e corpi militari dello Stato italiano sia efficiente. Qualunque comparazione internazionale dice lo è, punto interrogativo, risposta no. Allora, capisce, la funzione del corpo di tutela dei parchi, delle foreste e anche della prevenzione antincendio, oltre che no, c'è in ogni parte del mondo. In nessuna parte del mondo quasi organizzata in un corpo militare a parte come era in Italia, perché il problema non è la catena gerarchica, nella più dei paesi è sotto il ministro degli interni a volte e così via eccetera eccetera, le funzioni ci sono, i mezzi pure, però io rispetto il suo punto di vista perché l'avete vissuta come il grande complotto di chi vuole incendiare i boschi. Com'era, però, com'era il famoso titolo più forestale in Sicilia che nell'intero Canada, oh. Hai capito? Però detto tutto questo, che il Canada è un paese dove un po' di boschi ci sono. Poi ripeto, ricevo sms che dice no, attento, guarda che gare della loggia, l'idea con lo Stato. Benissimo. Faccio un altro esempio. Università di Bologna. Oltre a gli insulti a pane bianco e le minacce, a un certo punto, mesi fa, ne parlavo anche qui, gli studenti, un collettivo, devastano la biblioteca di lettere perché sono polemici coi tornelli e così via. L'università ne sospende alcuni, non possono fare gli esami. Alcuni docenti dell'Università di Bologna dicono non siamo d'accordo, gli facciamo fare gli esami. E adesso sono indagati con la solidarietà dei vandali. Allora, lì il problema cos'è? È che lo Stato non c'è. No, che viviamo in un paese in cui l'idea di cosa sia la legalità, oltre che l'efficienza, non c'è più. Per primo i professori dell'Università di Bologna, che capite? Sono lo Stato. Che sono, e per questo ho fatto l'esempio. Cosa volete più che funzioni? C'è Maurizio da Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. E grazie per aver affrontato il problema degli incendi. Dunque, noi qui in Maremma viviamo una situazione ormai da anni disastrosa, cioè le nostre pinete, i nostri boschi sono distrutti ogni anno per centinaia di ettari, no? Con oltretutto il rischio di vite umane. Dolosi ovviamente gli incendi. Dolosi, sì, sì. E quanti ne prendono sui giornali locali? Nessuno. Assolutamente zero. Zero. E quindi... Non sarà neanche facile, perché uno, sapete, non è che no, può mettere... No, però voglio dire, al di là del fatto che si potrebbe avere una prevenzione un pochino superiore, noi abbiamo qui un distaccamento dell'esercito che potrebbe essere impiegato con pattuglie per vigilare le zone più a rischio. Dopodiché abbiamo anche un aeroporto con tanti belli F-35 e credo che forse i nostri soldi potrebbero essere spesi meglio acquistando magari un po' meno F-35 e qualche Canadair, perché è impossibile. Due anni fa sono stati distrutti 300 ettari di pineta tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Non più tardi di 10 giorni fa è stata distrutta tutta la zona di Roccamare con 150 anni per poter ricostruire la flora ma è chiaro, ce la dice meno F-35 più, però ha sentito prima il capo dei Vigili del Fuoco a dire che abbiamo la flotta di Canadair più grande d'Europa. Vuol dire che ci sono paesi che sono messi peggio di noi. E voglia a Canadair, no. Se abbiamo il maggior numero di incendi dolosi, il punto è quello. Esatto. Non la flotta, cioè che uno che può c'è. Avere la flotta, ma se giustamente lei dice l'esercito controllare. Poi, se vuole polemizzare contro il F-35, vabbè, ogni cosa va bene. Come se gli dicessi, ieri l'Ox ci ha detto che abbiamo i dirigenti apicali della PA più pagati, con $339,000 in media a testa. Ovviamente loro hanno detto non è vero, come sempre in Italia. Però vabbè, legittima la sua polemica sugli F-35, però il problema è che la questione è che noi abbiamo la particolarità di concentrare, oltre a eventi in particolarità dell'anno con vento, il fatto di eventi dolosi. Sì. Ecco, il Messaggero stamattina ci ricorda, mi è tornato in mente quando lo dicevi prima, quanti sono in prigione. Secondo l'intervista che viene fatta oggi al sottosegretario Cosimo Ferri, in totale nel carcere italiano oggi detenuti per reato di incendio boschivo sono in totale 17 rispetto a centinaia di casi che ci sono ogni estate. Anche meno, pensavo perfino meno. Stefano da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco. Io ero qui con un mio collega e stavamo ascoltando la vostra trasmissione e abbiamo sentito che c'è tuttora una grandissima confusione tra corpo forestale dello Stato e operai forestali. Infatti. C'è un'enorme confusione. Il corpo forestale dello Stato è la polizia giudiziaria, mentre gli operai forestali sono dei contadini, dei pastori, degli operai, delle persone in cassa integrazione e quant'altro, che per un periodo limitato vanno ad occuparsi della manutenzione di parchi più o meno protetti, piuttosto che di altre aree, dove normalmente si trovano, e mi è capitato decine di volte, pur abitando io in Veneto, sono originario della Basilicata, mi è capitato decine e decine e decine di volte, di trovare in gruppetti da 30-40 a bere vino e a mangiare il panino, ma tutt'altro facevano tranne che lavorare. Sì, le dici, questi sono i forestali, che non è il corpo forestale, che peraltro è stato accorpato. Sì, il corpo forestale dello Stato. Sì, ma è chiarissimo, è chiarissimo, l'abbiamo detto prima. Cioè, lo scandalo delle decine di migliaia, di 24.000, eccetera, è una grande lista lavori socialmente utili, ecco, questo è il punto. Sì, sono gli operai forestali, quelli detti i forestali, chiaramente, che non sono del corpo forestale, che peraltro non c'è più accorpato con i carabinieri. Quindi c'è anche questo da dire. Andrea, grazie Stefano da Padova. Andrea da Udine, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno, salve. Io vi chiamo per fare due osservazioni, sempre nel merito di questo argomento, partendo da appunto l'editoriale dei Galli della Loggia. Allora, innanzitutto mi piace la visione dogmatica di Giannino, assolutamente ferma su un rifiuto totale dell'intervento dello Stato. Però... E questa è la mia prima osservazione. La seconda osservazione è: nel momento in cui il privato in Italia si è fatto Stato, e mi viene in mente la Banca Monte dei Paschi di Siena, lì ci sono stati dei grandissimi disastri. Guardi, allora, che quello è un partito e le istituzioni. MPS è andata per aria per via del fatto che è stata la politica. Si è fatta Stato. Ha assolto a quelli che normalmente. Non dei privati ladri. Nella provincia di Siena. Assolto a quelli che sono normalmente i compiti dello Stato. Allora io quello che dico è: il problema non è lo Stato o il privato che si fa Stato, il problema in Italia sono i cittadini italiani che non hanno un senso di comunità, e da cui poi gli incendi. Lei è convinto che siamo portatori di un DNA di devianza civile? No, non è una questione di DNA. Sai, su questo Andrea, io e Oscar ci scontriamo spesso. Mamma mia. Perché no, di solito è la premessa per dire: mica sono come me gli italiani. No, attenzione, però tu aggiungi sempre l'aspetto DNA che io non faccio. Culturale, io dico. Culturalmente. Noi avremmo questa tara antropologico-culturale, mettiamola così. Sì, un po' così, un po' così. Ma io non ne sono convinto. Poi così. No, io non sono convinto perché questa idea che appunto noi siamo, con la storia abbiamo alle spalle, portatori di un insane virus, per dire noi ci freghiamo a vicenda perché siamo più individualista, machiavellici, guicciardiniani, venditori di indulgenze, ecco, non mi convincerete. Credo di sì, rispetto al senso civico dei paesi scandinavi. Ma il senso civico dei paesi scandinavi nasce da secoli di istituzioni diverse. Non perché sono i danesi che hanno... Ma questo sto dicendo. Quando dico culturalmente, e se vuoi storicamente, è il motivo per cui noi italiani siamo figli di istituzioni ladre per secoli. Esatto. Istituzioni però non italiane. Ma questo sta dicendo Andrea, e io la penso assolutamente così. Noi italiani siamo così perché siamo il prodotto di una storia, ognuno è per esempio Andrea storia. Ha detto: i privati sono imprenditori di MPS. MPS era una banca privata. MPS va per aria perché ci sono pezzi di istituzioni, pezzi di Stato, cioè, ripeto, i sindaci, i presidenti di provincia, di regione, di un partito che invece di fargli fare la banca privata la rendono al servizio di quello. Quindi è un po' il contrario, non sono i privati che hanno, sono presi lo Stato, è lo Stato che si è preso una banca privata, poi un partito, perché lì vinceva sempre un partito, ma era lo Stato, il comune, la provincia, la regione. Un po' dei problemi dell'Italia è che siamo italiani, io la penso così, cioè che vuol dire non geneticamente troppo, ma culturalmente, storicamente, no, figli del nostro passato, che non è quello della Danimarca su questo aspetto. È un passato papista, papista. Per metà papista, borbonico. Adesso papista. Fino a aprile mi dirà che i Borboni invece erano il grande esempio di monarchia illuminata. Sì, certo, certo. Come no? Va bene. Savoia, mio Dio, guardate che io li accomuno e persino in peggio, non è che ho un giudizio elevato, per carità, io salverei solo i... solo perché ha fatto l'unità, per caso, però, perché per Cavour, per caso che non ci credeva, io salverei, guarda, solo l'imperial al regio governo austriaco, per essere chiari, quello almeno era efficiente. Vedi, dai, andiamo un attimo al giornale radio, poi torniamo con voi, state con noi fino alle 9:30. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo qui con Oscar alle 9:05, e con abbiamo, sottoscritto. Mentre ascoltavamo il giornale radio, cari ascoltatori, abbiamo riletto e scandito l'intervista imperdibile di D'Alema al Fatto D'Alema. Quotidiano. Di solito fanno una pagina D'Alema, stavolta due imperdibile, pagine. C'è questo passaggio che fa raggricciare la pelle, che rivela abissi di psicologie, di psicanalisi. Quale? Quello nel quale D'Alema ci descrive, cuore in mano, l'effetto che gli ha fatto la lettura di quelle pagine del libro di Renzi, nelle quali Renzi racconta, musica adeguata, devo dire grazie come sempre a nostro, no, perché grazie. Noi abbiamo la rubrica alle 6:30, lo psicologo, lo di D'Alema, esattamente. Cosa dice nella quale Renzi racconta che la figlia si rivolge al papà preoccupata dei destini della patria privata di un leader così luminoso e chiede: papà, ma davvero, ma tu puoi essere convinto, papà, che Orfini ha davvero abiurato nella fede di D'Alema? Allora, capite, i dibattiti a Casarezza. Allora D'Alema dice che l'ha letta e ha detto: ma vi rendete conto? Cresce i figli nell'odio verso di me. La politica italiana, che meraviglia. Renzi cresce nell'educazione all'odio. Se questi sono i principi educativi, c'è da essere preoccupati. E poi giustamente dice: ma allora lei ha letto il libro di Renzi? Per l'amor di Dio, no! Ho letto delle anticipazioni sui giornali. Disgusto provo, come letta. Disgusto, disgusto. Ormai in tutto questo uno legge questo e poi a fianco la notizia che l'Istat dice che ci sono milioni di poveri, no? Chiaro. E questi si prendono a male parole attraverso l'uso dei giornali. Quindi noi siamo complici, noi giornalisti. Dando siamo complici. Chiara idea delle priorità. Molto complici di tutto ciò. Io dico, siamo molto complici, perché se la smettessimo di fare queste paginate di interviste, inizierebbero a chiamarsi tra di loro invece che... No, ma soprattutto perché, cari direttori, visto che siete voi a fare la gerarchia delle notizie, non i giornalisti, i direttori, perché le imprese editoriali sono quanto poco, ma che resta intatto della monarchia assoluta. Allora, cari direttori, ma non lo avete capito che fare tutte quelle prime pagine ogni giorno si vende meno? Cioè, ecco, domanda, no? Domanda giusto per... Ma evidentemente non lo so. Qui, con tutto rispetto per le domande tra la figlia e padre Renzi sulla biura di Orfini e su D'Alema che legge e ripropone, capite, l'odio, li cresce nell'odio, forse, no? 4,7 milioni di italiani in povertà assoluta, forse, sì. Cioè un welfare non per giovani, né per chi ha meno, né per le famiglie, sì. Ecco, quello forse dovrebbe essere sempre, un tantinello più importante. Sempre più poveri gli operai, sempre più poveri chi ha tre figli, sempre più poveri i bambini, i giovani, eccetera. Ma evidentemente questi non fanno queste uscite, no? E no, che in effetti non scrivono la libri. La povertà è più sul silenziosa. Figlio che chiede, ma Orfini avrà davvero abiurato? Ma non so. Comunque c'è Gianna da Treviso che ci chiama. Gianna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Solo una precisazione che in parte è già stata fatta. Io ho delle persone dentro nel corpo forestale da poco, e sono rimasti forestali per poco tempo e poi sono passati ai carabinieri contentissimi, benissimo, è una cosa sacrosanta. Cosa vuol dire ho delle persone, dei parenti? Un figlio. Ah, un figlio. Un figlio che è stato molto contento di essere entrato in forestale e altrettanto contento poi di essere passato carabiniere forestale. Il problema qual è? Come sempre in Italia si fanno le cose forse in fretta, forse, e non c'è ancora concretizzata effettivamente le cose bene, come diceva proprio anche il presidente di Lega Ambiente, non si sa chi fa cosa. È un po' lasciati, sono un po' lasciati una persona per stazione, non sanno a chi rispondere, non riescono a fare le pattuglie, è un po'... Che bella così. Organizzazione! Sì, vabbè, quello. E poi il discorso forestali che appicciano il fuoco, sono quelli che non sono stati toccati, non si è mai trovato uno del corpo forestale. No, no, no, infatti fa benissimo a ripetere, fa benissimo, grazie. Il grave della faccenda è che i 30-40 mila operai forestali delle regioni a statuto speciale non sono stati toccati. Perché quelli sono, c'ha la regione a statuto speciale, l'ha detto lei. Statuto speciale. Che è diventato quasi sempre lo scudo di follie e dissipazioni. Sì, perché sembrava che fosse nell'immaginario collettivo, togliamo i forestali, li accorpiamo, diventa più efficiente. Ma perché tutti hanno l'immagine dei 24.000 siciliani? Sì. Ma non sono quelli che sono operai, l'abbiamo detto, ridetto. No, però giustamente lei porta anche, insomma, difende il corpo forestale che non sono gli operai forestali. Luca da Bologna, buongiorno Luca. Buongiorno a entrambi. Volevo dare un piccolo contributo sul vostro dibattito sul DNA degli italiani. Forse non siete poi così suspende troppo distanti o opposte. Io non sono genetista, ma lavoro a fianco a genetisti. E da tempo ormai su DNA non si parla più di il mio DNA è così diverso dal tuo che io sono bianco e tu sei nero. Ma abbiamo probabilmente lo stesso DNA, ma perché tu vivi in Africa e io in Scandinavia, tu esprimi i geni che rendono scura la tua pelle, che ho anch'io, ma le condizioni scandinave non fanno sì che vengano. Tutto questo per arrivare? Siamo quasi tutti uguali. Epigenetica, e cioè l'espressione dei geni in funzione delle condizioni in cui si trova. Io noto, avendo vissuto all'estero alcuni anni, 3 negli Stati Uniti e recentemente mezzo anno in Australia, che gli italiani che si incontrano all'estero sono quasi sempre persone fantastiche. Perché? Ma perché? Perché dice? Perché si adeguano? Perché sono... Perché secondo me le condizioni in cui gli italiani vivono nel nostro paese sono estremamente povere di ogni cosa, contenuti, senso civico, possibilità, e ci portano a esprimere sempre di più dei geni che si concretizzano in atteggiamenti negativi, da una parte Giannino dice e dall'altra invece Milan attribuisce ai geni. I geni sono gli stessi, ma è la condizione. No, ma Luca, ma è straordinario. Ci ha fatto una lunga analisi per dire che io e Oscar in realtà andiamo d'accordo su questa cosa. Come noi a volte accentuiamo anche per esigenze di conduzione, sì, sennò sarebbe. Ma sì, esatto. Ohimè, è vero che andiamo praticamente quasi sempre. Comunque, Antonio da Napoli, buongiorno. Sì, salve. Intervenire proprio su questo tema su cui è intervenuto anche il precedente ascoltatore, perché secondo me non si tratta né questione di geni né questione di senso civico, è una questione che in Italia è l'unico paese dove i vertici non sono sottoposti a dei risultati. Bravo! Allora, questo inevitabilmente innesca un sistema di degenerazione. Incentivi e disincentivi, sono d'accordo con te. Un altro problema è la responsabilità dei politici. Noi attribuiamo alle elezioni una sorta di verifica di risultato, il che spesso non è perché i politici la girano col clientelismo. Allora si spiegano i 24.000 forestali, si spiega la corruzione, perché per non rispondere dei loro risultati la girano col clientelismo. Finché noi non creeremo un sistema come in tutte le altre nazioni avanzate in cui i vertici sono sottoposti a verifica di risultato, la degenerazione sarà inevitabile. Va bene, Antonio, la ringraziamo per questa sua analisi. Allora, caro Oscar, l'immigrazione è un tema che rimane sempre molto, molto caldo. Per esempio, i giornali italiani, tranne uno, oggi non spiegano bene qual è la bozza del nuovo regolamento per l'ONG presentata all'Italia, che ieri si è confrontata già con la Commissione Europea su questo, ed è una bozza piena di novità, secondo me molto positive. Ecco, forse anche questo è un buon esempio, più interessante sapere questo che D'Alema è la figlia di Renzi, però, per dire, però esatto. Solo un giornale approfondisce, perché tanto per essere chiari, si tratta, nella bozza Minniti si chiede all'ONG di vietare interventi in acque libiche, primo di attivare il paese a cui appartengono, se battono bandiera diversa, il paese a cui appartengono fin dall'inizio dell'avvistamento, quindi permetterlo poi nella pipeline della collocazione finale. Terza cosa, si inizia a disciplinare il respingimento immediato se non esistono questioni di rischio forte. Allora, sono punti molto forti, l'Unione Europea ha dei dubbi, però io continuo a rendere atto a Minniti che mette per iscritto e prova a ottenere questa svolta vera. Stranamente i giornali italiani oggi sono un po' distratti, vabbè. Tra l'altro, sulla questione delle ONG, ieri Repubblica raccontava che c'è una iniziativa che verrà fatta la prossima settimana e che secondo noi creerà non pochi problemi. L'iniziativa è una iniziativa che è portata avanti da un'organizzazione, Generazione Identitaria, che è nata in Francia, è di ancora più a destra della Le Pen, così si autodefiniscono. Sono contro le forme di società multiculturali, sono anti-islamici, sono contro lo Ius Soli. In Italia c'è un portavoce del movimento, si chiama Lorenzo Fiato, che è con noi. Buongiorno, Fiato. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, sì, la sentiamo. Benissimo. Perfetto. Allora, settimana prossima viene data come la settimana in cui farete questa iniziativa intitolata Defend Europe, cioè difendere l'Europa. In cui farete che cosa in concreto? Allora, sì, la nave che è la Sister dovrebbe arrivare settimana prossima nel porto di Catania. E dopo dei brevi preparativi noi dovremo partire e andare direttamente a Sardegna dopo essere passati a Tunisi per un breve rifornimento. Aia, non si sente. Il cellulare, che c'ha il cellulare? Ci sente? Sì. Mi sentite ora? Sì, stia fermo qui. Allora, partite con la nave, arriverà a Catania e poi con questa nave cosa farete? Non si è capito bene? Con questa nave andremo direttamente nella Sardegna, dove noi faremo praticamente due cose in maniera principale. La prima è monitorare ed esporre il lavoro delle ONG e riportare qualsiasi cosa di illecito loro facciano. Noi vogliamo rompere la narrativa delle ONG che salvano vite in mare, poiché non è assolutamente vero. Beh, e la seconda cosa che vogliamo fare... Non le salvano. Diciamo che è un gioco di parole, nel senso che loro salvano delle persone che hanno probabilmente in alcuni casi affogano, ma dopodiché non possono queste ONG garantire a queste persone una nuova vita. Quello che queste ONG fanno è letteralmente fare da servizio taxi per queste persone dal Nord Africa, da cui vengono portate, alcune volte anche contro loro volontà, fino alle spiagge dell'Europa. Sì. E una volta che sono qua, queste persone vengono abbandonate in centri profughi dove spesso vengono sfruttate o altrimenti letteralmente lasciate al loro destino. Ho capito, ma leggiamo che voi volete anche, oltre a controllare l'operato delle ONG, cercare di impedire alle navi di migranti di appunto andare sulle navi delle ONG, di fare questo trasbordo. Cioè vorreste, cosa volete fare? Cioè volete fare una sorta di blocco navale? Se individuate una nave con dei migranti, cosa fate? No, questa informazione non è esatta, anche perché la nostra nave, che è un search and survey vessel, è attrezzata anche per fare delle operazioni di primo soccorso proprio la nostra nave. Quindi anche noi, se ci trovassimo proprio alle strette, ed è una cosa che comunque preferiamo che faccia delle persone qualificate, siamo in grado di fornire dell'aiuto di primo soccorso. Ma dopodiché a noi non interessa fermare l'operazione di salvataggio lì sul momento. Il nostro interesse è sorvegliare le ONG, riportare qualsiasi cosa di illecito loro facciano e collaborare con la Guardia Costiera Libica a modo di trovare le navi degli scafisti prima che le ONG lo facciano. Mm. Sai che però io su Repubblica ho letto una cosa diversa, cioè nel senso ho letto che voi vorrete impedire alle navi di venire, insomma ai migranti di sbarcare, questo anche perché è un po' la vostra filosofia politica, credo, no? Su questo ci può confortare che siamo nel giusto, cioè voi siete contro le immigrati, contro l'arrivo? Noi siamo contro l'immigrazione massiva, questo sì. Quindi se arriva una nave con a bordo dei migranti, voi cosa fate? Tecnicamente, se l'avvistate voi per prima, cosa fate? Se questa nave è in acque libiche, noi abbiamo intenzione di chiamare la Guardia Costiera Libica. E se esce dalle acque libiche, arriva in acque internazionali? Se esce nelle acque libiche, noi la seguiamo e riportiamo tutto quello che fa, come ad esempio spegnere i transponder o qualsiasi cosa di poco chiaro loro facciano. Ok. Cioè non è che però vi fate in modo che ritorni, che inverta la rotta e torni in Libia, no? No, questo è fuori dal nostro potere, però se noi siamo in acque libiche sicuramente chiameremo la Guardia Costiera Libica che avrà modo in questa maniera di occuparsi in prima persona del problema. No, perché la frase riportata a lei su Repubblica è: non li potremo impedire i salvataggi, ma una volta salvati li riporteremo indietro. Ok, sì, questo però... Questo fatto da loro, non da un'altra nave però, se lo fanno loro. Cioè se lo fate voi? Esatto, se questa cosa avviene, noi siamo costretti a salvare queste persone perché non c'è nessun'altra nave, allora il nostro programma è quello di riportarle o in un porto sicuro in Libia o in Tunisia. In Libia o in Tunisia? Che succede? Magari che è un po' pericoloso secondo me riportarli in Libia, no? Ma in verità sia in Libia che in Tunisia ci sono delle stazioni SAR che le ONG non hanno mai provato a contattare. E il lavoro che la Guardia Costiera Libica sta tentando di fare in questo periodo, quella di Tripoli perlomeno, è appunto di limitare il ruolo delle ONG e cercare di fermare l'immigrazione illegale. E quindi io penso che loro siano oltretutto interessati a fermare questo fenomeno e a... Sentite? Sì, sì. Ah, sì, ok, sì. Scusi. E di conseguenza a riportare le barche degli scafisti indietro, arrestare gli scafisti, fare in modo che i migranti non partano e se possibile distruggere la barca, queste barche degli scafisti una volta trasbordati i migranti su un'altra imbarcazione. Okay. Non so, se le posso fare un'osservazione, però l'osservazione tecnica per il mestiere che fa, lei continua a dire SAR zone, SAR vessel, SAR area. Ecco, chi ci ascolta non è tenuto, lo dico per lei, visto che deve comunicare quello che fa, che sta per search and rescue, quindi ricerca e salvataggio e così via. Glielo dico solo perché tutte le volte che cita l'acronimo a casa non arriva che cosa sta dicendo. Questo, se mi permette, da giornalista al comunicatore glielo dico, ecco. Quindi dite, chi ci ascolta non è tenuto a sapere che cos'è una SAR area. Lei dice in Tunisia e in Libia ci sono, è come se non stesse dicendo nulla a chi ci ascolta, e non è una critica, è solo per tecnica, perché si spieghi meglio. Si è parlato molto di i finanziamenti delle ONG, giustamente deve essere trasparenti. Si può sapere chi vi finanzia? Perché una nave è qualcosa che costerà, no? Quanti siete? Che nave è? Da dove prendete i fondi per fare quello che fate? Certo, allora noi abbiamo lanciato due raccolte fondi differenti. Con la prima abbiamo raccolto più di 60.000 euro, abbiamo avuto dei problemi con PayPal che ha tentato di bloccarci l'account, siamo riusciti in qualche maniera a recuperare i soldi e con questi 60.000 ne abbiamo firmato il contratto della barca che appunto sta arrivando nel Mar Mediterraneo, dovrebbe già esserci, sta arrivando verso la Sicilia. La seconda raccolta fondi invece abbiamo raccolto più di 100.000 dollari con i quali noi utilizzeremo per mantenere questa barca più tempo nel Mar Mediterraneo e svolgere più missioni. Okay. Generazione Identitaria che cos'è? Cioè un partito, un movimento? Se diciamo di estrema destra è corretto? Io non tendo a non riconoscermi in queste etichette. Noi ci definiamo un gruppo patriottico di un movimento europeo di ragazzi che si basa sull'attivismo politico. È nato in Francia nel 2012 e dopodiché si è espanso in gran parte dell'Europa occidentale nei mesi a seguire. Ed oggi vi è appunto Francia, Italia, Austria, Germania ed anche Slovenia, Repubblica Ceca, Belgio e Olanda. Ed abbiamo altre sezioni in via di formazione. E niente, per la domanda che mi ha fatto invece lei prima, riguardo alla barca, la barca è lunga 40 metri, può ospitare 30 persone, può passare più di 30 giorni in mare, e le persone che ci hanno finanziato sono tutti privati cittadini, per cui ragazzi, famiglie, persone che ci sostengono. Non siamo stati finanziati da alcuna associazione né da alcuna organizzazione che ci ha dato ingenti quantità di soldi, principalmente si trattano tutti di micro donazioni private. Sì. Vabbè, insomma, noi vedremo che succederà da lunedì. Un pochino a me inquieta c'è l'idea di una, la metto così, una possibile battaglia navale, voglio dire, no? Tra navi, ONG, chi li vuol salvare, chi dice no, non si devono salvare, bisogna riportarli. No, lei ci assicura che non succederanno, come dire, tensioni, ecco, in mare, in Mediterraneo? Può darsi che ci siano delle tensioni, ma tensioni finiranno lì. Io non credo che nessuna ONG provi mai a cercare di attaccare la nostra nave, no, o qualcosa attaccare del no, però voglio dire, c'è chi dice bisogna salvarli, no, voi dite bisogna riportarli in Libia, cioè capisce che certo, che un po' di tensione ci potrà essere. Insomma, comunque vi terremo sotto controllo, nel senso che vi richiameremo se dovesse, no? Fiato, la ringraziamo per essere stato con noi. Lorenzo, grazie a voi, Fiato. Buon lavoro. Lorenzo Fiato, portavoce italiano di questo movimento Generazione Identitaria. Generazione Identitaria. Va bene, caro. Io ne ho preso l'esistenza, colpa mia, sì, il mio mestiere dovrebbe essere informato. Beh, io lo posso sapere tutto. No, infatti, però bisogna anche ammetterlo, perché così, no? Alcuni ci accusano. Vuoi che credi di saper tutto? Per esempio, io Generazione Identitaria non mi c'ero mai imbattuta, l'ho appreso con questa vicenda di questa, di questa nave. Sono curioso di come una cosa francese poi rimbalzi in Italia, di capire qual è il vero collegamento. Ma non lo so. Qual è il vero collegamento, ma questo lo faremo approfondendo. Vediamo se Domenico da Mantova, con cui chiudiamo, è breve, se possibile. Domenico. No, no. Buongiorno a tutti e due, breve e conciso. Sì. Niente, volevo solo dirvi in merito all'intervista del Baffino d'Oro sul Fatto Quotidiano di ben due pagine, sì, relativo ai commenti che ha fatto su Renzi. Che voi avete detto che i direttori di giornali non dovrebbero fare queste interviste. No, le devono fare tutti i giorni, perché? Tutte le perché? Ore, ci dica. Tutti i minuti. Perché sì, con una webcam. Devono seguirli con una webcam. Perché più li seguono, più la gente capisce uno l'imbecillità dell'altro e l'altro la falsità di quell'altro, perché sono tutti e due. Ma guarda, D'Alema non ne parliamo, ma delle Bettino, ma per favore. L'ho sentito anche ieri mattina su Radio, mercoledì mattina su 102.5. Ma sapete che mi fa quasi pena? Cioè, perché non si rende. Ma no, ma più la gente ascolta le interviste, ascolta quello lei che dice D'Alema, meglio, meglio invece che parlo, meglio dalle voci. Perché così si insinua nel cervelletto della gente che poi dopo deve andare a mettere la famosa X. Si insinua un attimino il dubbio, dici, ma chi cazzo sto votando? Vabbè, Domenico, diciamo, è stato abbastanza chiaro nel suo intervento, abbastanza chiaro, si è capito. È venerdì, vediamolo tutti insieme. Questa cosa Milan del venerdì. È venerdì. Dai, Oscar, ma c'è anche sabato, però. Sabato, domenica. Dai, ci fermiamo qui, ci troviamo settimana prossima, Sì, state sì, sempre fino alle 9:30, non temete, ci siamo e guardate, questi due ultimi giorni, Milan lo sa ma non ve l'ha voluto dire, ma ve lo svelo io, altri due campioni della Juve passano al Milan domani domenica! Non è vero. Come non è vero? Oh, però Bonucci, se posso, avevi detto di se no? Se posso scegliere, altri due, detto altri Bonucci, due, altri due, vedrai, altri due. Vabbè, tanto non pagano, però vabbè. Esatto, paghiamo con i pagherò. Ciao.